Che Jim Kerr dei Simple Minds abbia una bellissima villa a Capri, insomma è stato qui a Rock FM, conosce benissimo me e i miei colleghi, a questo punto potrebbe tranquillamente invitarci in questa sua meravigliosa villa, un po' così per riprenderci da questo grandissimo periodo brutto di lerda e compro una M. Quindi, caro Jim, se sei all'ascolto, noi arriviamo. Un po' tipo l'armata Brancaleone, però nel senso arriviamo, e però non è che arriviamo e scorchiamo basta, io potrei occuparmi delle pulizie, i miei colleghi cucinano, magari qualcuno Gravelli ti guarda la piscina, un altro così, noi arriviamo, Jim invitaci. Adesso invece andiamo in Canada, dove per noi ci sono i Thousand Foot Crutch, un nome, un programma, questo Falls Apart. Away. waste and take it all I got. Leaving this place and I will not let it go to waste and take it all I got. Leaving this place, man, I will not taking up space. I'll take my best shot. I'm picking up the pace and ci vuoi invitare, noi arriviamo senza problemi. Non so perché mi è venuta questa cosa dello scroccare l'ospitalità agli artisti, forse perché l'altro giorno stavo guardando uno speciale sulle rockstar, sui loro soldini, sulle loro case, e che case, in alcuni casi, gioco di parole, veramente delle cose incredibili. Poi torni alla dura realtà del tuo appartamentino, con dove hai queste fantastiche cassette della frutta, però che decoupage e che arte povera meravigliosa. Vabbè, ora vi lascio con gli Aiden, questa She Will Love You. termine del mio spazio. Tra pochissimo con voi ci sarà Max Derio, al quale ovviamente mando un bacione. Con Hidden Cambria, questa era The Running Free. Adesso invece però vi lascio con un'altra novità, una delle ultime che ho proposto all'interno dello spazio serale. Vi vorrei raccontare un sacco di cose su questa band, ma in realtà li conosco pochissimo. Magari ne parliamo domani. Si chiamano Scary Kids, Scaring Kids, e questo è il loro primissimo singolo in assoluto, Faces. Scaring Kids con Faces, e così siamo arrivati anche ai saluti. Ci sentiamo domani da mezzogiorno alle 14, e giuro in giuretta, domani sarò presente in studio live, in diretta, sì, lo prometto. E vi lascio con l'ultima di oggi, un po' di allegria, un po' di ottimismo che arriva da parte dei Creed, che abbiamo scoperto noi comunque ai tempi, anzi diamo a Cesare quel che è di Cesare, li ha scoperti Gravelli. Questa è One Last Breath, tra poco Max Derio, noi ci sentiamo domani, un bacione e buona giornata. Please hold me now, I think I'm falling, holding on to all I think is safe. Seems I found a road to nowhere, and I'm trying to escape. Thinking maybe 6 feet is so far down. I'm looking down now that it's over, reflecting on. I thought I found the road. 6 feet from me, Adrian, I'm thinking.